abbassare una senata. La nuova gioventù non ci pensa più, e fuori a parlare, mettersi a cantor. Serenate, serenate, ricamate da un volano del tempo che fu. Vellutate con suola sotto ad un balcon, nelle notti stellate nessuno vi canta più. Serenate, serenate, m'hanno detto che è morto l'amore in ogni cuore. Non è vero, tutta la mia dormirà, e al mio cuore l'amore si desterò. Buon nuova gioventù, canta pure tu, se vuoi conquistare la tua donna amata. Ora se non s'usa più, cantala anche tu, senza esitazio, questa mia canzone. Sereno, amate da lungo l'adoro del tempo che fu. Vellutate con la suola sotto ad un balcon, nelle notti stellate nessuno vi canta più. Serenate, serenate, m'hanno detto che è morto l'amore in ogni cuore. Non è vero, tutta la più dormirai.